notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Magari qualcuno di voi potrà chiamare il telefono azzurro sapendo che io appartengo a una piccola storia personale in cui fin da bambino mi interessavo di politica. La prima volta che ricordo di aver visto l'Aula di Montecitorio era per l'elezione del Presidente della Repubblica nel 1985, avevo 10 anni. Se l'opposizione vuole chiamare il telefono azzurro può farlo. Bene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ogni giorno con un po' di ironia e con un po' di inventiva Renzi ne tira fuori una nuova. Oggi era la Camera, lo sapete, per ottenere la fiducia, che ha ottenuto con 378 sì, e ha parlato insomma di questa sua ambizione, questo suo sogno sin da quando era piccolo. Si dice che nei temi, mentre i compagni scrivevano voglio fare l'ingegnere, l'astronauta, l'avvocata eccetera eccetera, lui diceva voglio fare il Presidente della Repubblica. Chissà se ci arriverà. Intanto però così mostra questo lato anche tenero, un po' di fanciullino che immaginava il suo futuro. E oggi, tra l'altro, entrando, ha detto: tutte le aule parlamentari danno un senso di vertigine, di bellezza, di intensità come luogo della democrazia. Insomma, da una parte vuol fare un po' il parvenu, il candido della politica, dall'altro diciamo ci pare piuttosto scaltro, e vedremo se riuscirà a mettere anche la sua ambizione, questa sua scaltrezza, le sue capacità anche poi nella concretezza dei suoi atti politici. Quali sono gli argomenti che più vi hanno convinto o meno convinto di questi discorsi che ha fatto ieri tra Senato e Camera? C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ne parleremo naturalmente stasera, parleremo di vari argomenti, tutti legati però alla politica. Iniziamo allora, vi racconto, come sempre nel primo quarto d'ora, un riassunto della giornata. Dunque, Renzi ottiene la fiducia anche alla Camera. Abbiamo solo questa chance, ribadisce, e assicura l'Italia non si farà dettare la linea dall'Europa. Alla Camera l'abbraccio tra Bersani e Letta, e scoppiano ancora polemiche tra Boldrini e 5 Stelle. Crisi, l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, senza riforme crescita bassa, ma il commissario Rehn sottolinea Padoan sa cosa fare. Ucraina, la Russia mostra i muscoli e schiera i blindati in Crimea. È morto il tassista picchiato a Milano, per il suo aggressore l'accusa di omicidio volontario. Autostrade, operativi gli sconti sui pedaggi autostradali, ma non per tutti. E partiamo quindi da questa maratona renziana dopo il Senato di ieri. Oggi discorso alla Camera, ha ottenuto la fiducia, 378 sì, 220 no, un solo deputato si è astenuto. Poi non so se Vincenzo Miglietta sa di chi si tratti, comunque giornata movimentata anche questa. Ciao Vincenzo, in diretta da Roma. Buonasera ai nostri ascoltatori. No, al momento ancora non è fatto indagini, niente, no. Dell'astenuto, che poi è un voto, come sanno i nostri ascoltatori, è un voto palese, perché si passa di fronte al banco della presidenza e palesemente si dice vota. Il proprio nome, però evidentemente è sfuggito ai colleghi che seguono, ai colleghi delle agenzie che seguono più assiduamente i lavori dell'aula. Ma dicevi giustamente, una fiducia passata con 378 voti a favore, quindi in linea con i voti favorevoli che aveva preso precedentemente anche il governo Letta. Sotto questo aspetto, Roberta, nessuna sorpresa, certo. E quindi possiamo dire che il governo Renzi da circa mezz'ora è nel pieno dei suoi poteri, e da domani Renzi speriamo anche delle sue facoltà, fra l'altro, no? Certo, diciamo. Certo, inizierà il governo Renzi da domani, quindi il suo giro nei punti focali del paese. Domani per esempio sarà a Treviso, e oggi replica di Renzi sempre alla Camera prima del voto di fiducia. Ha ricalcato il Premier un po' il discorso fatto al Senato, quindi ha ricordato il passaggio epocale delle riforme, da quelle istituzionali alla macchina dello Stato, dalla scuola al fisco, dal lavoro al sostegno alle imprese. Poi Roberta ha puntualizzato una cosa che forse ieri si era capita poco: come interverrà, o quantomeno quanto interverrà, lo Stato a favore del taglio del cuneo fiscale. E possiamo far ascoltare allora questo passaggio. Sì. Ma com'è possibile essere credibili se la pressione fiscale su chi deve investire e creare lavoro è la più alta d'Europa? Nelle prossime settimane mostreremo la doppia cifra, che si riferiva ai miliardi, non alla percentuale, concretamente le forme. Effettivamente, se uno riduce di 10 miliardi la pressione fiscale, è giusto che ci sia il sorriso ironico. Quindi era un po' meno, diciamo, non era la percentuale a due cifre, ma erano i miliardi che sono 10, no Vincenzo Miglietta? Assolutamente, quindi ecco, Renzi ha sottolineato, non stiamo parlando di percentuali, ma di un vero e proprio taglio importante, e Renzi ha detto sarà di circa 10 miliardi, poi in realtà facendo i calcoli non c'è differenza tra questi valori. Ma comunque, per non annoiare i nostri ascoltatori sui numeri, il dato di fatto che ha detto Renzi è che in Italia c'è, Roberta, un'emergenza occupazionale, quindi lì bisogna intervenire e come si può fare? Proprio aiutando le imprese ad assumere attraverso la leva fiscale, quindi facendo costare meno il lavoratore alle dipendenze. Ma al di là del nuovo intervento programmatico oggi di Renzi, è stato molto interessante seguire poi tutto ciò che c'è stato nell'aula di Montecitorio, il ritorno di Bersani, un lungo applauso accolto il ritorno di Bersani dopo la malattia che ha avuto, e poi i vari interventi, le tante dichiarazioni di voto, le opposizioni scontate, quelle di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle. A sorpresa Renzi ha incassato il sì del suo ex amico Pippo Civati, che ha detto voto sì a Renzi, ma ho tanti dubbi su questo governo. Ed è interessante ascoltare quindi la sua dichiarazione di voto. Sentiamo in aula. Anche lui, sì. Io sono contrarissimo, ma ho spiegato perché voterò questa fiducia con il mal di cuore, il mal di pancia, ma soprattutto il mal di testa, perché la questione è molto razionale. Non mi sembra il momento di sfasciare tutto, altri hanno molto sbagliato, altri hanno messo a rischio la tenuta del Partito Democratico, io non voglio, come dire, arrivare fino in fondo, perché vorrebbe dire uscire dal PD, non votare la fiducia oggi. Tra l'altro c'era Corradino Mineo qualche sera fa, essendo civattiano di ferro, aveva detto ma potremmo pensare a un'ipotesi di un nuovo centrosinistra da anteporre al nuovo centrodestra, con dentro anche Selle, alcuni delle 5 Stelle. Per ora quindi mi sembra archiviato, no Vincenzo Miglietta? Assolutamente archiviato, soprattutto perché Civati lo ha detto, voglio fare le mie battaglie dall'interno del Partito Democratico, quindi al momento non sono previste scissioni o altre componenti al di fuori del Partito Democratico. Grazie Vincenzo, buona serata. Grazie, ciao Vincenzo Miglietta, ciao. E il governo dovrà tener conto anche delle previsioni diffuse oggi dall'Europa, che cresce più rapidamente, ma non pare tanto però che riguardi l'Italia. Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sì, le stime oggi della Commissione Europea, le attesissime stime d'inverno, le previsioni invernali della Commissione Europea raccontano una verità che purtroppo un po' ci immaginavamo, cioè l'Europa ha ripreso a marciare, trainata soprattutto da una Germania che fa segnare quest'anno un più 1,8%, queste sono sempre previsioni, in media la zona euro invece dovrebbe far segnare un più 1,2%, invece l'Italia va indietro, perché rispetto a quanto stimato a novembre, anziché lo 0,7% guadagneremo lo 0,6% a politiche invariate e a bocce ferme, ben al di sotto dell'1% che aveva stimato invece il governo nell'ultimo aggiornamento. E non solo, c'è anche una disoccupazione alta in Italia, il 12,6%, e quest'anno toccheremo anche il record del debito pubblico, il 133,7%, che invece calerà il prossimo anno. L'unico dato positivo così è il rapporto deficit-PIL, che scenderà al 2,6% quest'anno e scenderà poi ulteriormente al 2,2% il prossimo, quindi uno dei punti principali critici per i nostri conti pubblici, cioè il deficit, è ampiamente ormai sotto il 3% stabilito dall'Europa. Questo anche per un paradosso, tutto sommato, Roberta, perché come ha spiegato Bruxelles, la riduzione dello spread, cioè le minori tensioni sui mercati, hanno migliorato anche la situazione del bilancio pubblico italiano, paghiamo meno interessi sul debito e di conseguenza riusciamo anche a far calare, proprio per questi minori pagamenti di interessi, anche i nostri conti pubblici e anche migliorare il deficit. Però c'è comunque in qualche modo una certa fiducia a Bruxelles, perché quando il commissario agli affari economici Olli Rehn dice Piercarlo Padoan, il nuovo ministro saprà cosa fare, vuol dire che proprio per la sua esperienza all'Ocse è molto stimato. E c'è un'apertura di credito qui, molto bene. Staremo a vedere. vedere. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. E per le vendite al dettaglio in Italia giù del 2,1% nel 2013, peggior dato questo dal 1990, anche a dicembre è prevalso il segno meno. Passiamo all'estero, con la crisi ucraina slitta giovedì il nuovo governo del paese dopo la destituzione e la fuga dell'ex presidente Yanukovych. La Russia intanto mostra i muscoli e schiera i blindati in Crimea, regione filorussa. I cosacchi russi del Don sono pronti a sbarcare appunto in Crimea per aiutare i loro connazionali nel braccio di ferro con Kiev. E siamo alla cronaca. In Italia di nuovo con il Viz Italiano e la cronaca. Davide Guglielmo Righi è ora accusato di omicidio volontario. Con la morte di Alfredo Famoso, il tassista milanese di 68 anni, colpito domenica sera con una confezione di bottiglie d'acqua al volto, la Procura di Milano, da quanto si è saputo, sta modificando la sua imputazione, quella dell'aggressore, da tentato omicidio a omicidio volontario con dolo eventuale, ossia con l'accettazione del rischio e della possibilità quindi di uccidere. Righi sarà interrogato domani mattina dal GIP di Milano per la convalida del fermo e la decisione sulla misura cautelare. Torna in primo piano l'inchiesta sul disastro della Concordia. Due anni dopo Schettino tornerà giovedì a bordo della Concordia. L'inchiesta intanto ha un nuovo fronte. Tornerà a bordo, stavolta perché l'ha chiesto lui e il tribunale gliel'ha concesso. Francesco Schettino salirà di nuovo sulla Costa Concordia, abbandonata la notte del naufragio due anni fa, e lo farà per partecipare al secondo sopralluogo sul relitto. In questa occasione i periti esamineranno il generatore diesel di emergenza, che già subito dopo l'urto contro gli scogli del Giglio non funzionò. Un luogo importante tanto per il processo in corso quanto per la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Grosseto per violazione dei sigilli. La nave è infatti sotto sequestro, ma i divieti dell'autorità giudiziaria anche in quest'ambiente non sarebbero stati rispettati, e di questo i PM accusano almeno due dirigenti di Costa Crociere: il custode giudiziale della Concordia, Franco Porcellacchia, colui che ha seguito tutta l'operazione di raddrizzamento, e il consulente Camillo Casella. Gli indagati sarebbero saliti a bordo della nave alla vigilia del primo sopralluogo. Lo hanno fatto per garantire la sicurezza delle persone, spiega il difensore di Costa, Marco De Luca. La procura vuole vederci chiaro e vuole farlo pure Schettino, che ora potrà con i suoi stessi occhi osservare la devastazione dei ponti mangiati dalla ruggine, la distruzione delle cabine sventrate dall'urto, e capire cos'è ora la Concordia, l'immagine della morte di 32 persone. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo adesso degli sconti stradali, scusate, per i pendolari. Operative da oggi, con valore retroattivo anche al 1 febbraio, le agevolazioni per i pendolari che utilizzano la rete autostradale per gli spostamenti casa-lavoro. Buone notizie per i pendolari italiani, che da oggi possono usufruire fino ad un 20% di sconto sulle autostrade. Agevolazione valida fino al 31 dicembre 2015 e frutto dell'accordo tra governo e concessionari rappresentati dall'AISCAT. Per averne diritto però ci sono alcune condizioni ben precise. Bisogna dotarsi di un telepass, essere proprietari di vetture che rientrano nella categoria A e non si può superare un tetto di percorrenza giornaliero di 100 km fra andata e ritorno. Gli sconti inoltre non sono cumulabili con altre iniziative promozionali adottate da singoli gestori. È per questo che il provvedimento è stato bersaglio di critiche, soprattutto per il limite chilometrico, troppo basso secondo molti pendolari. Chi da Venezia va a Mestre tutte le mattine è infatti stato escluso per soli 2 chilometri, e fra le tratte dove lo sconto non è applicabile c'è anche la Napoli-Salerno e la tangenziale partenopea, deluse le associazioni dei consumatori, che parlano di risparmi irrisori per pendolari che dall'inizio dell'anno hanno subito aumenti anche del 15%. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E per chiudere dedichiamoci al calcio, con la Champions, dove non ci sono in realtà delle italiane, ma sono partite comunque di un certo livello, Dario Ricci, di un certo interesse, vero? Eh sì, è proprio così. Italiane, è rimasto solamente il Milan, atteso l'11 marzo dal ritorno a Madrid con l'Atletico da rimontare c'è l'1-0, Roberta, ma intanto hanno giocato alle 18 italiane a San Pietroburgo lo Zenit e il Borussia Dortmund, vice campione in carica. Beh, Borussia Dortmund che è passato, ha vinto per 4-2, mentre sono attualmente in campo ad Atene l'Olympiacos e il Manchester United, il risultato ancora fermo sullo 0-0 dopo circa mezz'ora di gioco. Grazie Dario Ricci, adesso ci fermiamo perché dobbiamo aggiornare invece chi viaggia, e poi parleremo soprattutto di politica, e ci sarà tra pochissimo la ministra Stefania Giannini, se non è stata fagocitata da altri impegni, chiederemo varie cose, soprattutto questa importanza che Renzi in modo piuttosto inedito mi sembra ha dato alla scuola rispetto ad altri presidenti del Consiglio. Per le vostre opinioni sull'argomento centrale, che è appunto il governo Renzi, i suoi discorsi programmatici, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo velocissimamente allora i fatti principali di oggi per passare alla prima ospite. Renzi ottiene la fiducia anche alla Camera, l'avete sentito, dice non ci faremo dettare la linea dall'Europa. E poi alla Camera c'è stato anche l'abbraccio tra Bersani e Letta. Per quanto riguarda la crisi, l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia senza riforme, crescite basse. Ma il commissario Rehn sottolinea, Padoan sa cosa fare. In Ucraina la Russia mostra i muscoli e schiera i blindati in Crimea ed è morto purtroppo il tassista picchiato a Milano per il suo aggressore. L'accusa è di omicidio volontario. E ho il piacere di salutare la ministra Stefania Giannini, bentornata ministra. Buonasera, buonasera a tutti e anche agli ascoltatori. Buonasera, ci siamo lasciate che era la leader del suo partito Scelta Civica e ci ritroviamo che è ministra, diciamo, nel giro di poco tempo. Sono veramente contenta per lei, ministra. Lei sa tra l'altro che ha un'enorme responsabilità sulle sue spalle, perché non so quale altro presidente del Consiglio, magari mi è sfuggito, a memoria di donna, in precedenza abbia dato così tanta enfasi nei suoi discorsi per la fiducia sia al Senato che alla Camera alla scuola. Ma ho la stessa memoria sua, quindi abbiamo lo stesso difetto, oppure forse è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, mi sa. Sono d'accordo, sono consapevole della gravosità di questo incarico, dell'enorme responsabilità politica, anche perché nel mio caso, lo ricordo con piacere e considerando l'onere, io aggiungo al mio ruolo di segretario politico quello di ministro, perché insomma il presidente Renzi l'ha detto sia al Senato che alla Camera, questo è un governo politico e la presenza dei segretari politici ne è la testimonianza più forte. Quindi il fatto che si parta dalla scuola, secondo me, è davvero un tratto di profonda svolta culturale e politica. Questo è un dato centrale che insomma fa piacere al ministro dell'istruzione, ma credo che debba far piacere a qualsiasi cittadino italiano che abbia a cuore il futuro del paese. Certo, e tra l'altro vorrei sentire adesso un passaggio di Renzi, che il suo modo disinvolto, irrituale, anche in questo modo ha ricordato come prima la scuola, il prestigio degli insegnanti, insomma, avesse un certo valore e adesso decisamente meno. Sentiamo. Penso alla mia piccolissima esperienza di studente cresciuto in un paese della provincia di Firenze. Quando io entravo al bar o in parrocchia o al circolo, la maestra elementare era vista da tutti come il riferimento del paese. Quando la maestra elementare apriva bocca c'era il silenzio delle persone intorno. Perché? Perché la maestra elementare era considerata un valore prezioso per una comunità. Ha sentito, ministra Giannini? Sì, avevo sentito ho risentito, condividendo davvero in toto questo pensiero di Renzi, che poi è quello che molti pensano, forse che tutti pensano in un paese che ha tolto prestigio sociale al ruolo dell'insegnante. Prestigio sociale significa non solo uno stipendio basso, no? Perché poi anche questo fa la sua parte, ma anche il riconoscimento che educare e trasmettere alle nuove generazioni conoscenze dalla scuola dell'infanzia fino all'università è forse il ruolo più delicato e più importante. E quindi non solo le riforme procedurali che restituiscono questo, ma proprio, ripeto, mettere al centro di un'agenda politica il tema dell'educazione. L'ho trovato veramente una sfida straordinaria, perché poi alle parole seguiranno e devono seguire i fatti, ma insomma è anche davvero quel modello coraggioso che, guardi, in questi due discorsi, Senato e Camera, ecco, la mia sensazione è che si sia sentita una profonda cesura rispetto a una politica, no, di ieri, e ieri è anche pochi mesi fa, perché c'è, sì, ha ragione lei, in maniera magari disinvolta, qualcuno appunto ha detto il rituale, in qualche misura è vero, ma c'è stato il tentativo, secondo me riuscito, di dare una visione del paese, cioè di dire quello che noi vorremmo ottenere con una legislatura di respiro che quindi affronti problemi importanti. Sa, la scuola perché non è mai stata al centro? Io le dico la mia visione, dico la scuola, ma insomma posso dire l'istruzione. Sì. Perché non è un settore in cui si investe oggi per avere risultato domattina, cioè è un settore in cui quello che si fa oggi lo si vede, non dico dopo una generazione, perché grazie al cielo i tempi ormai sono più rapidi anche negli investimenti in questi settori come quelli della cultura e dell'educazione, però lo si vede dopo un certo periodo. Quindi una politica di corto respiro, no, che è, diciamo, sempre oberata dalla tentazione di fare cose che servano per altri voti il mese successivo o l'anno successivo, e non si perde in questo, no? E quindi questo, insomma, l'ho trovato davvero, al di là del mio ruolo, insomma, nel governo, ma politicamente ho trovato un elemento, oserei dire, rivoluzionario in uno schema paese come il nostro, in cui, ha ragione lei, non ci ricordiamo di un Presidente del Consiglio che abbia fatto il suo discorso di fiducia su questi temi. A questo proposito, Ministra Giannini, quindi questa visione un po' rivoluzionaria di voler veramente cambiare le cose anche sulla scuola, non sarà mica, non consisterà, Ministra, nell'ennesima riforma che ogni volta che cambia governo, cambia ministro, qui ci vuole una nuova riforma della scuola, no? Non ho ansia di firma di riforme, questo che mi chiede. No. Ho ansia di affrontare tutti i problemi, sia quelli emergenziali che ci troviamo sulla scrivania, tipo appunto il contratto che sta per scadere a giorni, no, dei lavoratori socialmente utili, su cui stiamo provvedendo per via normativa, perché è l'unica strada per dare un po' di respiro e poi affrontare in maniera duratura il problema, sia altri che sono, insomma, problemi anche antichi della scuola, che con calma metteremo in agenda, ma non ho nessuna ansia di mettere la firma sotto la riforma Giannini, ecco, per dirgliela. Senta, lei ha incontrato per caso la sua predecessora, la ministra Carrozza, le ha parlato? Sì, come no, la prima persona che ho chiamato, e l'avrebbe fatto lei sicuramente se non l'avessi preceduta di qualche minuto, e poi ci siamo visti al ministero ieri mattina quando ho preso un po' visione di tutte le varie cose. Sentiamo cosa dice in questa intervista da Repubblica Online. Il suo successore, il ministro Giannini, ha nella sua prima intervista espresso forti perplessità sull'idea che lei aveva lanciato in una grande consultazione per la scuola e ha anche proposto un blocco degli scatti di anzianità, una revisione del sistema. Su queste idee lei come la vede? Ma io penso che sia meglio essere più prudenti all'inizio, perché bisogna prima conoscere un po' la situazione, il ministero, io stesso ho messo un po' di tempo a capirlo, quindi bisogna nella scuola essere molto prudenti, e penso che imparerà anche lei a farlo, perché insomma lì si muovono milioni di persone. Quindi, ministra, deve essere un po' più prudente secondo il consiglio dell'ex ministra Carrozza? No, io condivido l'invito alla prudenza, devo dire forse i giornalisti devono essere più prudenti, se posso permettermi, perché nel mio caso, lo dico a lei, l'ho detto ai suoi colleghi in tutti questi giorni, non ho nessuna preciso obiettivo su, tantomeno su iniziative che sono state progettate o pianificate da altri, che insomma è giusto rivedere o comunque confermare, ma dopo un'attenta valutazione, né ho ancora idee precise su problemi specifici, sarebbe strano e sarebbe presuntuoso. Quello però, ecco, che insomma, che ognuno porta con sé insomma, un metodo di lavoro, no, che chiaramente può anche essere espresso come visione preliminare all'affrontare i problemi, quindi ogni ambito ha le sue complessità che vanno valutate con attenzione, ma ogni mondo, diciamo, chiede anche, quando lo si deve dirigere, no, in una funzione apicale di questa complessità, che ci si porti dietro una visione di quel mondo, e questa insomma è preliminare, no? Quindi il concetto del merito, della valutazione, della responsabilità, per me sono criteri che sono diciamo preliminari alla presa d'atto di quella che sono le complessità oggettive. Poi vedremo come calarli. A questo proposito, anche per esempio per il metodo di reclutamento degli insegnanti, lei che pensa, ministra? Questo è un altro di quei temi, insomma, quelle domande da 100 milioni di euro, di dollari, faccia lei quale moneta preferisce, perché chiaramente il reclutamento in Italia è sempre stato diciamo affetto da questo accanimento terapeutico sulle procedure, quello definirei così, o più presente quello dell'università in cui lei lavora, come ho detto, certo, in altre occasioni, insomma, si sono fatte 5 o 6 riforme nell'arco di 15 anni, no? E poi alla fine, dopo questo percorso accidentato, si arriva a concludere che i problemi sono rimasti, non sono stati risolti. Nella scuola il discorso è un po' diverso, ma credo che diciamo quanto abbiamo ora, se ci troviamo decine di migliaia di docenti precari, no? Quindi un disagio che diventa anche sociale, oltre che diciamo di contenuto e di metodi per le scuole, vuol dire che il problema non è stato risolto, quindi va affrontato, ma insomma dopo averne presa visione. Renzi ha detto, fra le altre cose, no? Anche rilanciando l'edilizia scolastica, la stabilità delle scuole è più importante della stabilità dei conti. Sì, l'ho sentito anche questo, e insomma ha un suo valore simbolico questa affermazione, credo che ne confermo questo valore, ecco. Quindi io dicevo all'inizio che a memoria mia ogni volta che si cambia governo si parla di una nuova riforma della scuola, e anche poi andando avanti con il governo che è entrato in vigore, anche di tagli alla scuola. Ogni volta che ci sono i tagli, le due prime voci sono sanità e scuola. Lei pensa che si riuscirà a evitare in questa legislatura? Ma diciamo che si parte con i migliori auspici, no? Proprio per quello che abbiamo detto, poi sa, tutto può capitare, per carità, ma mi stupirei davvero tanto, e allora forse sarebbe anche una contraddizione in termini che andrebbe denunciata come tale. Credo di no. Senta, per chiudere, ministra, che so che ha da fare, ma al di là della prudenza, del vedere man mano cosa c'è da fare, ma un'idea che le sta proprio a cuore, molto a cuore, che riguarda la scuola, una cosa che vorrebbe fare a tutti i costi? Ma ora sa, non faccio il verso al mio Presidente del Consiglio, ma siccome l'ho detto in giorni precedenti, anche prima di avere questo prestigioso e oneroso incarico, perché mi occupavo per il mio partito e tuttora insomma dei settori dell'istruzione e della ricerca, quello dell'edilizia secondo me in Italia è davvero un tema non più prorogabile, quindi questo è una cosa che deve essere nell'agenda di questo governo, proprio perché questo governo assegna all'educazione un ruolo fondamentale. Il secondo punto che metterei è quello davvero di dare centralità al merito e quindi alla valutazione dalla scuola primaria fino all'università. Ecco, ormai ci sono processi che sono stati avviati, alcuni anche con molta serietà, però insomma c'è un gran lavoro da fare. Io credo che se si arriverà anche nel mondo dell'istruzione a poter distinguere con molta serenità chi fa bene, chi fa meglio, chi fa meno bene, e dare diciamo il giusto peso, no? E il giusto valore all'impegno, alla volontà di aggiornarsi, parlo degli insegnanti, oppure ai risultati di ricerca per gli studiosi, i ricercatori, i professori universitari, in modo corretto, credo che sarà un grande risultato. Ecco, quindi qui si tratta di proseguire su una strada che è già stata avviata da anni. Bene, ministra Giannini, allora io spero di risentirla presto, intanto le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi, a lei in particolare. Grazie. Buona serata. E adesso io direi che sentiamo un attimo un passaggio a Ballarò, c'è un passaggio del discorso di oggi di Renzi, voglio sentire proprio qualche secondo. Sono i casi eccezionali, ma voi di lavorare meglio e più rapidamente. Ma il vero problema è un altro. Quando si approva una legge, non è detto che poi... Forse era il discorso di ieri al Senato. Adesso però noi ci prendiamo una pausa di pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo, sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte _ Roberta Giordano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ve ne do in moltissimo meno adesso quelle principali, poi ritorniamo invece sul nuovo governo Renzi, visto che ha avuto la fiducia alla Camera, ormai è varato questo governo, quindi questa è la prima notizia naturalmente. Poi alla Camera c'è stato anche l'abbraccio tra Bersani e Letta, Bersani che è tornato dalla sua lunga convalescenza. Per la crisi l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, dice senza riforme non c'è, che la crescita è bassa, mentre il commissario Olli Rehn però rassicura dicendo Padoan, cioè il ministro dell'economia, sa che cosa fare. In Ucraina la Russia comincia a mostrare i muscoli, anzi l'aveva già mostrati da tempo, e schiere blindate in Crimea, sono pronti i cosacchi a partire, a intervenire. Per quanto riguarda la cronaca, è morto il tassista picchiato domenica a Milano, e per il suo aggressore adesso l'accusa è di omicidio volontario. E saluto Stefano Folli, bentornato Stefano. Eccomi, buonasera, ciao. Editorialista del Sole 24 Ore. Stavo leggendo un messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Matteo, ho 20 anni e credo che Renzi non possa che aver deluso la nostra generazione, tralasciando la sua totale adesione al paradigma incontestabile, eccetera, eccetera. Un lungo discorso, dice, di ritornare a crescere nel più breve tempo possibile. Il suo discorso, dice Matteo, ha riservato un silenzio assordante nei confronti della strage della terra dei fuochi, della mafia, dell'ambiente e delle disuguaglianze. Ti sembra così? Ma nel discorso di Renzi ci sono sì molte cose che non sono state dette, d'altra parte non si può neanche immaginare che sia onnicomprensivo un discorso, che sia soltanto una infinita agenda di tutti i problemi, questo sarebbe anche abbastanza strano. Deve essere un discorso in cui in maniera selettiva vengono sollevate le questioni e viene offerta, diciamo, una prospettiva di soluzione. Ora, semmai è questo che è un po' mancato nel discorso, sono state dette delle cose, fatte delle promesse, degli annunci, però sono mancate un pochino l'indicazione del come, è mancato il foglio del come, come diceva Crozza in un suo celebre sketch. Ecco, questo è quello che si deve attendere da Renzi e speriamo che nel prossimo futuro arrivi anche il foglio del come. Quindi la questione soprattutto delle risorse, dici tu, delle coperture, risorse, no? Esattamente. Comunque lui ha annunciato soprattutto lotta alla burocrazia, taglio del cuneo fiscale per l'appunto, retribuzione totale dei debiti della pubblica amministrazione, quindi un sacco di soldi anche qui, grande piano di edilizia scolastica, riforma della giustizia dello Stato e poi le grandi riforme, la legge elettorale, il titolo quinto, l'abolizione del Senato. Senti, ma non è che la legge elettorale è passata un po' in secondo piano per caso? No. Io credo che lui abbia interesse ad avere la riforma elettorale, certo metterla proprio in testa a tutti in questo momento può creare una serie di malcontenti anche nella maggioranza, però io credo che Renzi abbia intenzione di ottenerla questa riforma elettorale, che per lui significa avere un grosso strumento di pressione sui partiti, in particolare sui partiti della sua maggioranza, da cui lui rischia di essere condizionato strada facendo. Invece con la possibilità di avere una legge che gli consente di sciogliere le Camere e poi di giocarsi una partita importante in cui c'è in palio un grande premio di maggioranza, beh, il discorso cambierebbe. Senti, a proposito della sua maggioranza, Stefano, Renzi ha più da temere possibili imboscate, tranelli, inciampi, eccetera, da il nuovo centrodestra o dal suo partito, dal PD? Guarda, io penso che Renzi in questo momento abbia davanti a sé un certo margine di strada da percorrere senza troppe e grosse minacce, sia che vengano dall'interno del suo partito in particolare, che mi sembra piuttosto allineato, salvo qualche malumore inevitabile, ma è anche centrodestra, non vedo l'interesse del centrodestra a mettere in crisi un governo che ha dato ruolo al centrodestra, al nuovo centrodestra di Alfano e anche del tre ministeri importanti. So che stasera ci sono un po' di malumori per i sottosegretari, ma insomma sono cose che succedono a ogni governo, no? C'è sempre qualcuno che si lamenta di come vengono divise le poltrone del sottosegretario, di viceministro. Non credo che si possa immaginare di costruire una prospettiva politica su questo, tantomeno far cadere un governo. Senti, ma il fatto, ritornando prima alle coperture, Stefano Folli, il ministro Padoan, il nuovo ministro dell'economia, a proposito di domande appunto sulle coperture, sulle risorse, dove saranno prese eccetera, ha detto no comment. Ti sembra preoccupante o solo non ha voluto, insomma, prima di stabilire con Renzi il da farsi, fare delle anticipazioni, penso, tipo Del Rio, ecco. Io penso che sia bene che ci sia una certa riservatezza, non perché non si debba dire all'opinione pubblica, ma semplicemente perché prima bisogna sapere che cosa dire. Ora il programma annunciato, seppure molto a grandi linee, da Renzi, come anche tu prima sottolineavi, comporta sulla carta un esborso molto consistente di denaro, denaro che noi non abbiamo, quindi occorre immaginare dove trovare queste risorse, occorre immaginare dei tagli di spesa. Per esempio Renzi non ha mai parlato di tagli di spesa nel suo discorso, e questo è anche abbastanza strano, no? Non vorrei che passasse l'idea che tutte queste riforme sono a costo zero, cioè non comportano oneri e soprattutto non comportano queste riforme anche la creazione di fasce di scontenti, categorie che sono colpite, toccate, incrinate nelle loro certezze. La storia insegna che queste riforme così radicali sono anche delle riforme non solo costose, ma che hanno anche un prezzo sociale. Questo Renzi mi pare che nella sua visione ottimistica non abbia dato questa impressione. Speriamo che non sia un eccesso di ottimismo. Proviamo a sentire Giuliano Poletti, ministro del lavoro, Ballarò. Diciamo, è stato un percorso un po' tortuoso, no? Perché Del Rio ha detto vedremo la tassazione sui bot, Lupi ha detto no, non lo fate, allora poi Renzi ha detto beh, non sono nuove tasse, però non ha escluso quindi che possano, più tardi andremo a Palazzo Chigi da Renzi e glielo chiederemo, ma che fate, le alzate o no le tasse sui titoli di Stato? Parla Poletti. Io su questo versante non sono titolato a darvi nessuna risposta perché c'è un ministro delle finanze, è un primo ministro e c'è un governo e una maggioranza, quindi queste cose non le anticipa un ministro da una qualche parte, almeno dal mio punto di vista, tutti insieme si fanno le valutazioni che si debbono fare e si prenderanno le decisioni. Noi lo faremo dentro la logica che abbiamo rappresentato nella presentazione del governo al Parlamento. Noi pensiamo che ci sia un tema di equità in questo paese, noi pensiamo che c'è un problema tra chi paga troppo poco e chi paga troppo, e in particolare c'è un problema di distribuzione della ricchezza. Anche questo qui è un bel tema, Stefano Folli, la distribuzione della ricchezza, il tentativo di ristabilire equità che già aveva promesso Monti, ma ancora non si è fatto niente. Ho sempre una vaga sensazione che si arrivi prima o poi alla patrimoniale, perché mi sembra che questi discorsi vadano un po' in quella direzione, ufficialmente no, ma insomma un po' di sapore di questo c'è nell'aria. Si può fare tutto, per carità, purché si sappia esattamente dove si vuole andare a parare. Non dimentichiamo che questo è un paese che ha già introdotto delle patrimoniali surrettizie che colpiscono molto soprattutto il ceto medio, e questo credo che Renzi lo sappia e lo sa anche il ministro Padoan. Forse è questo che spiega anche la riservatezza che è anche sinonimo di serietà del ministro dell'economia in questo momento. Il passaggio è delicato e bisogna ben sapere che cosa si vuole fare e come lo si vuole fare. Senti, ma ti piace come figura, come ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ex presidente della Lega Coop? Sì, io l'ho conosciuto, è una persona molto, molto spontanea, molto legato al suo territorio, alle imprese economiche, in particolare alle imprese cooperative, che caratterizzano un reticolo sociale molto ampio in Italia e quindi diciamo tendenzialmente probabilmente anche in grado di capire i problemi delle piccole e delle medie imprese e i problemi del lavoro appunto del suo ministero. A te non sembra, Stefano, un po' un paradosso, questa è l'impressione che ho avuto negli ultimi giorni ascoltando interviste un po' a destra e a sinistra, Renzi si dice, si sostiene soprattutto su due maggioranze parallele, da una parte fuori Forza Italia che ha l'opposizione sulle riforme a cominciare da quella elettorale, poi dentro la maggioranza il nuovo centrodestra, ma mi è sembrato che ci sia più entusiasmo, quasi più difesa strenua nei suoi confronti da parte di Forza Italia, di vari esponenti, soprattutto donne oltre a Berlusconi, che non il nuovo centrodestra. Ti sembra questo strano paradosso? Ma questo è in parte vero, però può essere anche semplicemente l'effetto di un po' di tattica parlamentare. È chiaro che Forza Italia e il gruppo di Berlusconi ha tutto l'interesse a diciamo far rilevare il proprio ruolo, no? Quasi a dire, no? A sottintendere che il governo si appoggia, sia pure nella dialettica maggioranza-opposizione, ma quasi quasi si appoggia al gruppo di Berlusconi perché deve trovare lì la compensazione delle carenze della sua maggioranza, quindi c'è anche un po' di tattica e un po' di messaggi mediatici in questo. Lo vedremo nel futuro, nel prossimo futuro, nelle prossime settimane. Ultima domanda, Stefano Folli, oggi è tornato Bersani, no? In Parlamento, sì. Renzi l'ha salutato, ha detto lo ringrazio, non era un gesto scontato, insomma questo di essere presente al mio discorso e per la fiducia, e però Bersani ha detto benché mi pare che questo governo non abbia tra le sue qualità migliori l'umiltà, penso che sia un governo che ha bisogno di aiuto, che ha lanciato una sfida molto seria e quindi bisogna darlo questo aiuto. Ho sottolineato che non è un governo che tra le migliori qualità ha l'umiltà, questa è una cosa che rimproverano molto a Renzi. Uno dice vabbè, giustamente un leader politico deve credere in se stesso, speriamo come dici tu che non sia troppi annunci, no, troppo ottimismo. Diciamo che non è certo l'autostima che fa difetto a Renzi, questo credo che si possa dire, e lui stesso penso che possa essere soddisfatto di questa nostra osservazione. Bersani però, il senso della presenza di Bersani è che il PD deve dare sostegno al governo in questa fase, deve sostenere lo slancio. Guai se dovesse succedere che è proprio il PD a creare una frattura con il suo segretario premier, sarebbe la fine di questo partito. Io penso che Bersani abbia voluto fare un richiamo all'unità del partito e la necessità di sostenere il governo, anche se ci sono senz'altro anche dei malumori. Grazie Stefano Folli, a presto, ciao. Buona serata. Bene, siamo arrivati giusti puntualmente al momento della viabilità. Leggo un'agenzia tutta stellata. Governo Van Rompuy, Renzi dice Italia farà le riforme. Quindi sono tutti convinti, oppure una specie di esortazione, come un'affermazione esortativa quasi. Poi sapete che ha ricevuto anche telefonate di congratulazioni da Obama, da il primo ministro Cameron, il primo ministro della Gran Bretagna. Insomma, un po' di riconoscimenti, un po' di esortazioni, diciamo, a livello internazionale. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo brevemente, Renzi ha ottenuto la fiducia anche alla Camera con 378 sì e 20 no. E poi notizia di poco fa che Van Rompuy ha detto a Renzi l'Italia farà le riforme, quindi l'Unione Europea continua su questa linea di esortare, di rassicurare, come ha fatto anche il commissario Olli Rehn, che ha detto il ministro Padoan sa che cosa fare. In Ucraina intanto c'è sempre tensione perché la Russia ha schierato i blindati in Crimea, che è la regione filorussa dell'Ucraina. Intanto, per quanto riguarda la cronaca italiana, è morto il tassista che è stato picchiato domenica a Milano, e per il suo aggressore adesso l'accusa è di omicidio volontario. E l'avete sentito, dice Renzi, ha detto tra le cose che ha affermato con una certa fermezza oggi anche alla Camera, ha detto non vogliamo che l'Unione Europea detti la linea all'Italia. Allora questo ci porta direttamente sul nostro appuntamento serale con l'Europa, un discorso breve, quello del Presidente della Commissione Barroso oggi, questa mattina all'Assemblea Plenaria a Strasburgo, al Parlamento Europeo. La ripresa c'è, ha detto, insieme abbiamo dimostrato che tutti coloro che avevano profetizzato il crollo dell'euro e dell'Europa avevano torto. Le prime parole del Presidente sono state però per l'Ucraina: siamo rimasti colpiti dalle immagini di sangue e morti arrivate da Kiev, ha detto Barroso, invitando Mosca a lavorare assieme. Della necessità di una linea condivisa tra Occidente e Russia è convinto anche Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS. Europa 24 notte. Verso le europee. This is the year in which we are moving away from recession. The recovery is expected to continue and to become more robust during the year and strengthened further in 2015. Siamo sulla strada della ripresa, ci aspettiamo che prosegua e diventi più robusta nel 2015, ma la situazione è ancora difficile, servirà tempo per risolvere il problema della disoccupazione. Globalmente però l'economia migliora e non dobbiamo sottostimarlo. José Manuel Barroso parla alla plenaria per spingere ancora una volta sulla crescita del vecchio continente, a poco più di due mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Il presidente della Commissione fa la lista delle cose da fare: ridurre la burocrazia, semplificare i sistemi fiscali, spostare l'onere fiscale dal lavoro. Nessuna novità, il che solleva anche critiche nelle risposte degli europarlamentari, che rimproverano a Barroso di non tenere nella dovuta considerazione le difficoltà economiche che molti paesi europei vivono. We were all shocked by images of dead people and violence in Kiev. Ma non è dall'economia che il discorso di Barroso prende le mosse, bensì dall'Ucraina. Il presidente fa sapere che l'Europa sta lavorando con i partner internazionali per trovare i modi per sostenere economicamente Kiev, e poi si appella alla Russia: lavori costruttivamente con noi per garantire un'Ucraina unita, che sia elemento di stabilità per l'Europa. La freddezza della posizione russa arriva nelle parole del ministro degli esteri Lavrov. Mosca non interferirà negli affari interni dell'Ucraina e spera che anche i suoi partner occidentali assumano la stessa posizione. Della necessità di un compromesso tra Europa, Stati Uniti e Russia è convinto anche il professor Germano Dottori, docente alla LUIS di studi strategici. Solo una linea condivisa potrà evitare la frammentazione dell'Ucraina. Europa e Stati Uniti dovranno mettere mano al portafoglio per mettere a disposizione delle autorità ucraine i fondi che sono stati invece lesinati lo scorso autunno, dando modo a Vladimir Putin di di mettere i propri e determinare quella spiralizzazione della crisi cui abbiamo assistito in questi mesi. Quella sarà una delle possibili vie di uscita. Occorrerà tuttavia essere molto attenti a trovare un punto di compromesso con la Russia, perché se non lo si trova, allora veramente il rischio della frammentazione diventa concreto, e con la frammentazione anche la possibilità di una maggiore crisi internazionale. Dobbiamo ricordare che attraverso l'Ucraina passano gas e petrolio con il quale ci riscaldiamo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Eccomi con voi, Roberta Giordano, sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666. Renzi non è umile, dice un ascoltatore, ma Bersani è arrogante. Mentre Rosi dice lasciamolo lavorare, Renzi deve temere i suoi. E poi invece Max scrive, sentendo il ministro dell'istruzione di sistemare gli edifici, dice sì, ma chi salderà i vecchi debiti che hanno le scuole con gli imprenditori? Vabbè, comunque Renzi ha detto che vuole sbloccare tutti i debiti della pubblica amministrazione. Staremo a vedere, abbiamo detto che un grosso problema è quello della copertura, ma adesso restiamo sulla politica, ma col Movimento 5 Stelle, con Carlo Sibilia che saluto. Buonasera Sibilia. Salve, buonasera, è un piacere essere vostro ospite. Grazie, reciproco questo piacere. Deputato del Movimento 5 Stelle, allora lei oggi ha tirato fuori una battuta nel criticare aspramente Renzi, che vorrei far risentire agli ascoltatori. L'ascoltiamo insieme allora, Sibilia. Va bene. Io mi aspetto che lei me lo dica. Io lo sento che vuole dirlo, ce lo chiede l'Europa, su me lo dica, ce lo chiede l'Europa. Del resto lei e Padoan siete figli di Troika. È spiegato, e lo spiego subito perché siete figli di Troika, perché diversamente non si capisce il motivo. Concluda. Per cui già il 7 gennaio 2014 il nome Renzi compare in un documento della UBS, la banca più influente del mondo dopo Barclays, che illustrava le linee programmatiche che lei seguirà da Presidente concluda. Del Consiglio. Concluda, è già oltre il suo tempo, concluda. Mi ha interrotto concluda. 12 volte, grazie, sono oltre il tempo. Concluda. Va bene, io concluderò grazie. Perché altrimenti finisco grazie. Per impiangere concluda. Ecco, ha concluso Sibilia. Intanto spieghiamo che la Troika è la triade di Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Quindi lei voleva dire siete figli dei poteri forti, insomma, in questo senso, Sibilia? Sì, questa era la sostanza del discorso, che io avrei spiegato in maniera dettagliata se il Presidente ancora una volta in maniera antidemocratica non mi avesse bloccato il tempo. Quindi il problema è che in discussione erano sia Renzi, per quel documento che io vado a citare della UBS, e anche Padoan, che di fatto è proprio un'espressione diretta dei poteri forti e della Troika, perché lui è stato sia consulente della Banca Mondiale, quindi già un organismo internazionale importante a livello finanziario, e poi è stato consulente e nel board di Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea, quindi sostanzialmente a chiusura di quello che è proprio l'organismo Troika, quindi più diretto di così è difficile. Io la ringrazio che mi dà la possibilità di spiegare quello che in aula non ho potuto spiegare. No, è qui, per carità. Sibilia, però, quindi voi non avete, diciamo, nessuna sintonia neanche col governo Renzi, anche se per carità è appena nato, è proprio per questo che mi pare che ci sia stata stasera, non so se è già finita, l'assemblea del Movimento 5 Stelle per decidere se espellere quei quattro vostri colleghi parlamentari che avevano detto, insomma, quando c'è stato lo streaming con Grillo, l'avevano criticato dicendo potevi cercare di fare un po' un minimo di dialogo con Renzi, di vedere se c'erano dei punti in comune, invece l'hai stroncato così. Come c'è ancora la riunione? No, guardi, io credo che l'errore è proprio quello di considerare il governo Renzi un governo nuovo, perché come sappiamo bene è stata violata una procedura iscritta nella Costituzione italiana per la quale la crisi governativa andava parlamentarizzata. Siccome questo passaggio non è avvenuto, semplicemente si è deciso all'interno di una sede di un partito in maniera antidemocratica, con 136 voti della sede del PD, si è scelto di levare Letta e porre Renzi. Quindi non c'è nulla di nuovo, perché la maggioranza che sostiene Renzi è la stessa che sosteneva Letta. Allora il punto si pone: anche se il Renzi dovesse riuscire a fare i provvedimenti che lui ha detto, molti dei quali sono simili a quelli programmatici del governo Letta, il problema è chi si prende la responsabilità di aver perso 12 mesi, siccome la maggioranza è la stessa, quindi le persone sono le stesse e le idee dovrebbero essere le stesse. Ma non c'è neanche una cosa che abbia detto Renzi in questi giorni a Senato e Camera che vi abbia un po' convinto, sul quale dite bah, adesso vediamo come agisce, se mai diamo l'appoggio su quell'unica cosa, no? Ma le ripeto, non è una questione di quello che dice, perché quello che dice potrebbe essere tutto favoloso. E certo, per il fare bisogna aspettare un pochino, no? Il problema è la sua credibilità. Perché le ripeto, siccome noi diciamo e sosteniamo fatti alla mano che non c'è nessuna differenza tra il governo Renzi e il governo Letta, se non il nome, perché la maggioranza che li sostiene è proprio identica, quindi i nomi delle persone che votano oggi la fiducia a Renzi sono gli stessi che due mesi fa, un mese fa, votavano la fiducia anche a Letta. Quindi partiamo da questo presupposto che è un fatto. Incontrovertibile. Quindi, siccome noi ci comportiamo in maniera coerente, siccome non abbiamo dato la nostra fiducia a Letta per i motivi che abbiamo spiegato all'epoca, la stessa sorte è valida anche per Renzi. Adesso lui può dire qualsiasi cosa. Inoltre abbiamo oggi elencato i motivi per cui anche come persona, una persona che fino al 10 febbraio diceva che non aveva alcuna intenzione di andare a Palazzo Chigi senza essere stato sottoposto al giudizio popolare, quindi all'elezione democratica popolare, e poi abbiamo visto com'è andata, non può avere nessun genere di credibilità, secondo me. Mi dica solo una cosa, Sibilia, perché tra poco poi ci deve lasciare, ma sì. Con l'assemblea che avete fatto stasera, li avete espulsi questi quattro semidissidenti da voi, Orellana? No, noi in realtà quando facciamo le assemblee non espelliamo mai nessuno, lasciamo poi dalla rete l'onere, perché sono i cittadini che si devono esprimere. In questo momento l'assemblea è in corso, io mi sono andato per 5 minuti, quindi poi lo saprà in serata, insomma. Quindi non in esclusiva qui Effetto Notte, purtroppo mi dispiace, mi sarebbe piaciuto anche per voi. Finora quindi a che punto siete arrivati? Però c'è stato dialogo con questi quattro dissidenti? Stiamo discutendo, è ancora in corso la riunione, quindi quello che verrà fuori quello sarà comunicato. Avremo la pazienza poi di aspettare dopo. Allora, grazie Carlo Sibilia, intanto buona continuazione. Grazie molto. Grazie, buona serata. Noi adesso ci interrompiamo, lo sapete, ritorno tra pochissimo per ricordarvi quali sono stati i fatti centrali della giornata.